Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano. Sì, c'è una notizia dell'ultima ora su Antonio Cassano, abbastanza sorprendente, perché 8 giorni dopo aver firmato il suo contratto con l'Hellas Verona, Antonio Cassano sta pensando di lasciare l'Hellas Verona e di lasciare il calcio, con ogni probabilità. È stato un momento di grande debolezza stamattina, perché ero stanco, tante cose, e avevo fatto una riunione con la squadra, col direttore, con Fabio, per dire che volevo un attimo staccare, ma non altro. Io sono convinto della scelta che ho fatto e voglio continuare a giocare, perché la mia scelta è che voglio vincere questa scommessa. La decisione di Pancia, secondo me, era una cazzata clamorosa, più grande di quelle che già ne ho fatte tante. E questo penso che sia il momento giusto per, tra virgolette, continuare e dargli e fargli l'ultimo miracolo della mia carriera, di fare una grande stagione con questa squadra. I tifosi non l'hanno per nulla preso bene questa cosa. Ma guarda, se si sono sentiti offesi, non è che io traditi da te. Aspetta, non è che io dovevo andare via per un'altra squadra. No, io avresti appeso le scarpe a chiodo, diciamo, esatto, così. Per tante situazioni, perché per la mia famiglia, tornare a casa, eccetera, eccetera. Se loro si sono sentiti offesi, gli chiedo scusa. Io e loro dobbiamo camminare sulla stessa strada e fare una stagione super. Siamo divertiti, ieri Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, Andrea Roccabella, tutti voi. Abbiamo creduto per mezz'oretta che Cassano chiudesse col calcio, ci siamo interrogati sul perché, poi alle 4 Cassano si è presentato, l'avete sentito, ha detto: guardate, scusate, ci ho ripensato ancora, avrei commesso un errore, eccomi qui. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, mi avete ripescato del Cassano, io sto in vacanza, ma tornerò presto, mancate, vi ascolto. Come potevamo fare a meno di te, Pier? Certo. Poi ormai sono quasi finite le vacanze, fra un po' riusciamo poi tutti i giorni. Ma no, guarda, io parto fra 2 giorni, quindi adesso non esageriamo, sono quasi finite. Per me sono quasi finite. Vabbè, comunque, insomma, ma sì, la verità è molto più semplice di quello che può sembrare. Cioè, la verità è questa, e te lo posso dire proprio per testimonianza diretta. La verità è che era magari da un paio di giorni che Antonio sentiva un po' solo, che aveva bisogno della famiglia. Sono discorsi che indubbiamente, se mi rendo conto, se li mettiamo paragone con i problemi pratici di tante persone che magari non hanno un lavoro, che hanno, insomma, no, i problemi quotidiani dei comuni mortali, possono sembrare, si fa fatica a prenderli sul serio. No, certo. No, ma sono ovviamente, ma questo lo sa anche lui, cioè, credimi, anche lui sa benissimo che, però è anche vero che alla fine è così, quindi si è sentito solo, ha avuto questa tentazione. Poi nel frattempo Carolina l'ha convinto, i suoi amici l'hanno convinto, insomma, che fosse una cazzata è evidente. Anche lui, sono contento che sia finita così. Certo, insomma, l'ennesima situazione che magari tanti non avranno capito, però insomma, l'importante nella vita è essere felici, e quindi questo è il punto di partenza. Sì, e anche fregarsene di quello che dicono gli altri. Allora, 800 24 00 24 per chiamare, prenotarsi, intervenire in diretta fino alle 15.30, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Siamo ripresi sulle pagine Facebook Radio 24 e tutti convocati trattino Radio 24. Oggi, partendo da Cassano, facciamo il gioco della torre. E allora io dico che mi tengo Cassano e butto giù tutti i moralisti. Adesso vi spiego perché mi tengo il Milan che ho intravisto ieri, amichevole inutile come tutte quelle di luglio, ma secondo me che ha dato qualche indicazione. Invece oggi ho letto chi scrive di prima sconfitta, delusione e così via. Io mi tengo il Milan, mi tengo Bernardeschi che in queste ore si avvicina alla Juve. Oggi Prandelli sul Corriere della Sera addirittura ha detto che Bernardeschi potrebbe andare alla Juve a fare semplicemente la riserva, invece secondo me è un grande colpo. Voglio sapere che cosa ne pensate. Poi dopo le 15 parliamo dell'incredibile caso di Zaitsev e della nazionale di pallavolo che rischia di perderlo, anzi al momento l'ha perso, per una questione di scarpe di sponsor, e io vi dico che io mi tengo Zaitsev perché non esiste che un atleta che fa anche degli sponsor parte del suo stipendio debba piegarsi a una federazione che fondamentalmente non lo paga. Ma questa so che è una posizione non popolare e ne parleremo con Andrea Lucchetta, che la pensa diametralmente in maniera opposta. Quindi 800 24 00 24. Oh, carissimo Pier, no, perché ieri in tanti ci hanno inondato di messaggi dicendo Cassano sputa in faccia ai disoccupati, ai cassi integrati, non sa cosa vuol dire la fatica, è l'ennesima cassanata, così, per usare un eufemismo. Guarda, e invece secondo me uno ha il diritto di fare quello che vuole, le cassanate sono altre, questa è semplicemente una riflessione, magari lui l'ha fatta ad alta voce e poteva tenersela. Guarda, dentro tutto si spiega in una cosa che non è un complimento, però è la pura verità. Questo Cassano, vengono appiccicate etichette molto negative. La verità è che è Peter Pan, è molto infantile, è un uomo estremamente pantofolaio, estremamente fortunato, perché adesso non so, ma qualche soldo la parte l'avrà messo, anche perché è persona attenta, non è uno che ha fatto che i soldi li ha buttati in cose strane, è uno proprio tranquillo all'antica da questo punto di vista. È uno che ha una visione assolutamente familiare della vita, quindi esiste la famiglia, il nucleo delle poche persone a cui vuole bene, che gli vogliono bene, ed è questo, è veramente molto tradizionale. Mi dovrebbe dire che sei anche abituato, noioso, Pier, però, non diteglielo, che poi vi dici, no, ma sei noioso, è quasi noioso da questo punto di vista, però è una persona molto, da questo punto di vista, molto all'antica. Sicuramente il fatto di avere dei soldi da parte e non avere, secondo me, mai avuto, e questo è stato uno dei suoi limiti nella carriera, un'ambizione sfrenata a livello di altri grandi sportivi, insomma gli è mancata un po' dell'ambizione feroce che hanno veramente i grandi agonisti, i grandi sportivi. Questo l'ha limitato. Questo secondo me l'ha un po' limitato. Però sai Pier, io ho un testimone oculare, un conoscente, che ha passato con lui alcune giornate in Sardegna quest'estate in vacanza, e mi ha detto che aveva una voglia matta di rientrare, ma una voglia concreta. L'ho sentito insomma varie volte, anche 2 o 3 giorni fa, la voglia è tanta ed è totale. Ha avuto veramente un momento di grande debolezza. Poi io ieri, quando si è sparsa la voce, l'ho sentito, tra l'altro io stavo facendo una regola di Mina Borussia Dortmund, anzi ti chiedo scusa, mi ha chiamato Mario Tregonica, approfitto per dirtelo, insomma ha cominciato a chiamare Zazzaroni, mi ha chiamato il mondo, quindi ho capito che era successo qualcosa e mi ero anche un po' preoccupato, perché insomma poi alla fine, e invece lui mi ha parlato di questa cosa qui e vabbè, ed è finita lì. Poi credo sia stata decisiva Carolina, nel senso che poi quando la tua famiglia, appunto per questo, cioè non è che poi lì si è messo a fare chissà quali calcoli di marketing, non è che ha parlato col commercialista o ha parlato con l'avvocato, ha parlato con la moglie e la moglie gli ha detto che quello che gli ho detto anch'io nel mio piccolo, che era una cazzata, perché era un'uscita di scena completamente sbagliata, e perché lui invece in realtà aveva aspettato, covava da un anno la possibilità di una rivincita, di poter far bene. Quindi questo è il punto di partenza. Però guardate, io non è che voglio, non è che siccome sono amico mio dico che va tutto bene, è terribilmente infantile, sì, è terribilmente infantile. Però anche se fosse ritirato davvero ieri, non avrebbe fatto del male a nessuno, nemmeno al Verona, anzi sarebbe stato paradossalmente molto sincero. Guarda, io dico questo. Poi c'è chi dice che stiamo difendendo l'indifendibile, amico. Noi la pensiamo così, amici. No, ma io, attenzione, non sto difendendo. Cioè, Cassano per me è un esempio, lo fa anche lui. È un esempio di talento sprecato. Per cui io non è che non dico questo, io dico che è assolutamente così. Cioè, poteva fare molto di più, e chi lo dice ha perfettamente ragione. Io sono da quella parte, ma vi dico che anche lui è da quella parte. Cioè, se tu parli con lui, lui è il primo che ti dice che ha buttato delle occasioni. Però poi alla fine, secondo me, è una persona felice, da quello che io vedo da fuori, una persona che ha i suoi valori, che ha la sua famiglia, che prova a comportarsi bene, che ha giocato a pallone soprattutto per il gusto di giocare, che sicuramente poi avrà la frustrazione di pensare che avrebbe dovuto vincere di più, avrebbe dovuto guadagnare di più, ma complessivamente non gliene frega molto. Complessivamente è una persona felice e che ha trovato anche un suo equilibrio. Poi detto questo, quella di ieri è una cazzata, e sicuramente dal punto di vista mediatico non è stata una gran figura, ma anche questo lo sa anche lui, cioè non è che ti sto dicendo che figata che ha fatto Cassano. Ci ha anche messo la faccia e ha detto, scusate, abbiamo scherzato. Pier, come sai, alle 14:15 abbiamo il traffico. Sì, io torno in riunione. Ti do 30 secondi. Ti do 30 secondi, siccome hai fatto la telecronaca, mi devi dire il voto del Milan di ieri. Ma il voto al Milan di ieri è 5, perché sicuramente il Dortmund è stato superiore, anche se dopo i primi 20 minuti in realtà il Milan ha provato a giocare la partita, cioè nel secondo tempo il 3-1 è arrivato in un momento in cui il Milan stava provando a spingere. È chiaro che è una squadra ancora profondamente diversa, quella di ieri profondamente diversa da quella che vedremo. Però qualcosina ancora, si è visto, tra che si è Çalhanoğlu, qualcosa si è visto. Sì, perché si è intuito. Si è visto qualcosa, ho visto anche dei difetti, ho visto anche Paletta che concede un rigore abbastanza incredibile. Si sono viste delle dormite, si sono visto insomma che non è che certi giocatori a distanza di un anno solo per diciamo così per osmosi perché respirano la stessa aria dei nuovi acquisti sono diventati più forti, quindi però insomma cambierà anche tatticamente perché con Bonucci poi penso che passerà la difesa a 3, quindi insomma il test di ieri è veramente l'inizio dell'inizio. Va bene, grazie Pier, a prestissimo, chiamatemi, mi certo. Ciao Pier. Ah, vi dobbiamo dare anche una notizia di mercato che sta maturando tra la Spagna e l'Inghilterra, che riguarda anche il Milan, e ve la diamo subito dopo il traffico. Allora ci fermiamo un minuto, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp. Ci state inondando di messaggi contro Cassano, ma noi la pensiamo così. Traffico, torniamo subito. Convocati. Tutti convocati. Allora, leggo alcuni dei messaggi che stanno arrivando sotto la diretta video. Vi ricordo che ci potete seguire sulle pagine Facebook Radio 24 e Tutti convocati trattino Radio 24. Gianluca ci chiede della Fiorentina dopo le 14:30, facciamo proprio un approfondimento sulla Fiorentina, e tra l'altro in queste ore c'è l'accelerazione per portare Bernardeschi alla Juventus. Paolo Dagnino chiede notizie sulla cessione del Genoa, alle 15 arriva Marco Bellinazzo ma dovrebbe essere questione di ore. E poi ancora Massimo Suning, Keita è ancora un obiettivo Inter, perché non si sblocca, perché l'Inter sta aspettando anche di chiudere in uscita la cessione di Perisic. Poi ci viene chiesto se la Juventus si è indebolita. In questo momento secondo me sì, perché si è indebolita dietro e la compattezza della difesa è sempre stato il valore aggiunto della Juventus in questi anni, e oggi in questo momento è un'incognita. C'è De Sciglio che sta facendo le visite mediche, ma De Sciglio certamente non è superiore a Dani Alves, e Bonucci dal punto di vista tecnico è un'assenza che pesa. Tiziano e Paolo, 800 24 00 24. Tiziano, ciao, ascolta. Vai. Guarda Cassano, sono d'accordissimo con te, ognuno fa quello che vuole e non ha tolto il pane a nessuno. Se lui, perché la gente non sa che allenarsi, specialmente per uno come Cassano, io mi alleno tutti i giorni, è una grande fatica fisica e mentale. Ed è facile stando sul divano a dire non ha voglia di allenarsi. Provate ad andare a correre 2 ore al giorno sotto il sole. Sì, e poi, Tiziano, cioè, io mi rendo conto che c'è anche chi fa lavori più usuranti e meno pagati, però in questo caso per un giocatore che di fatto da un anno e mezzo era fuori dal circuito agonistico ci può anche essere la stanchezza e la consapevolezza che forse non ce la fa, no Tiziano? Ma sono d'accordo, e quindi c'è anche una grande sincerità da questo, ad ammetterlo. Io sono più grande di Cassano, lo sai, però io tutte le mattine vado a correre un'ora. Però sono stato a Formentera una settimana, non ho corso 2 giorni quando sono tornato. Sabato, quando sono andato a correre, sembrava che mi sparassero nei muscoli. Ma stai scherzando? Ma la gente, tutti vanno, è facile fare gol, correre e vai più forte e fa la fascia. Ma poi quando sei in campo, ma tu scherzi, a 35 anni poi c'è lui, c'ha la pancetta anche. Ma lo scherziamo? Ma è il fisico. Ti fa il conto alla sera, eh? Sì, ma io credo di fatti, grazie Tiziano, che ci fosse anche un, ma in parte Cassano lo ha detto, insomma anche una fatica fisica oltre che quello che ha raccontato lui e che ci ha raccontato prima Pierluigi, e quindi questa sensazione di distacco dal suo mondo e dalla sua famiglia. Paolo dalla provincia di Bergamo, Paolo. Salve. Vai. No, volevo solo dire che Cassano sì, non ha fatto niente di male. Non è da condannare, però ha detto una stupidata, poteva farsi consigliare, e mi sembra un po', ma è anche bello perché vedi che è un ragazzo genuino, ingenuo, però qualcuno lo dovrebbe consigliare, non puoi fare e dire al contrario tutto quello che vuoi. un altro esempio, io asfalto le strade, cioè non è che è un lavoro leggero, sì. Però anch'io non è che da un giorno all'altro dico no, non vado più a lavorare o no, vado a fare rimostranze. Ai comuni mortali questo non è concesso, hai perfettamente ragione Paolo, mentre a quelli del pallone sì, beati loro, è un mondo particolare questo, ma non lo scopriamo adesso con Cassano. Però ripeto, io ho letto tanti moralismi nelle ore in cui Cassano sembrava si ritirasse e anche dopo, e sinceramente secondo me in questo frangente si è esagerato. Saluto Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao, ciao a tutti. Vuoi dirmi due cose su Cassano che hai conosciuto benissimo, credo in tutte le sue sfaccettature? È imprevedibile, è imprevedibile, quindi le cose che... come si chiama, che fa, diventano sempre... Sì, sono imprevedibili anche esse. Anche fuori. No, non lo so, mi sembra strano, perché ama veramente, anche nella difficoltà che ha sempre dimostrato, anche magari in alcuni casi fisica, proprio perché tante volte quando si è fermato, e l'ha fatto già più volte nella sua carriera, sempre ha avuto difficoltà nel poter riprendere la forma migliore e quindi far fatica. E di solito i talenti non sono così tanto abituati a far fatica, però ha un amore, sicuramente capisce il valore di che cosa vuol dire giocare a calcio, anche per lui soprattutto. Sì, sì, ma poi è evidente che quando stai fermo per un anno a 35 anni diventa tutto molto più complicato. Allora, la notizia di mercato che è stata battuta pochi minuti fa, ripresa da Gianluca Di Marzio, è che Morata è a un passo dal Chelsea. Il che significherebbe, dopo che ieri sera il Borussia Dortmund ha di fatto chiuso le porte della cessione di Aubameyang, che al Milan rimangono Belotti e Kalinic. E casca comunque bene, no? Demetrio, ammesso che sia davvero così, e riesca a prenderne uno dei due. Sì, sta facendo una grandissima squadra, ha ricreato quell'entusiasmo che mancava da tempo, è stato veloce, sono stati molto bravi a vendere, diciamo, a convincere i giocatori quello che è il progetto, il futuro, anche perché non essendo in Champions League è sempre difficile convincere un giocatore, visto che a venire al Milan, visto che i concorrenti sono sempre altre società che possono garantire questo accesso diretto già da quest'anno alla Champions League. E quindi sono stati molto bravi e dovesse arrivare uno dei due, il Milan si rafforza per vincere lo scudetto, cioè, penso che questa sia la lettura, non per altre cose. Quindi secondo te è già competitivo per lo scudetto? Allora, per essere competitivi lo è, ci sono due letture. Uno, competitivo significa che è in grado di fare più di 85 punti, perché questa oggi è la quota del campionato, guarda, italiano. Lo dico da centrocampista, quello che conta è la punta, quindi se trovi una punta che fa gol, sia per salvarti che per vincere, quello conta moltissimo. Quindi Belotti è imprescindibile per completare il progetto, questo dici? Una punta, magari anche quelli che se dovessero fare l'anno giusto, che fanno 25 gol, vanno bene anche quelli che c'hanno, ma tante volte i giocatori lo devi valutare, non lo sai, perché uno fa gol e l'altro meno, no? Ce ne sono pochi quelli certi che ti fanno sopra i 25 gol tutti gli anni. Uno di questi è Higuain, visto quello che ha fatto anche l'anno scorso. Però insomma lì deve lavorare, e quindi è questa certamente, probabilmente, perché poi il Milan ha preso delle certezze, dei giovani che hanno delle prospettive. André Silva fa parte della seconda categoria. Assolutamente sì, è un giocatore che lo dobbiamo vedere all'opera, mi incuriosisce molto, avere le potenzialità tante volte non diventano certezze immediate, magari arrivano dopo un percorso, sempre detto che anche gli stranieri abituarsi al nostro campionato è difficile, però ho detto il Milan ha fatto un bel mix e deve puntare allo scudetto, perché puntare allo scudetto la crescita del gruppo, perché adesso i singoli può averli, no? La crescita del gruppo avviene anche magari a qualche delusione, il superamento di qualche delusione, ma se punti a meno poi raccogli meno. Ti ha sorpreso la partenza di Bonucci dalla Juve? Sì. Bonucci, ti ha sorpreso la partenza di Bonucci? Mi ha sorpreso la partenza di Bonucci, se fosse che arrivasse al Milan, perché magari già dall'anno scorso si parlava che Leo poteva andare, aveva richieste all'estero molto importanti, e quindi che sarebbe stato un uomo mercato anche quest'anno, lo potevo immaginare, non avevo la certezza che potesse andare via. e quindi un po' di sorpresa c'è. Sì, giro anche a te il paragone che ho fatto in questi giorni, facendo anche arrabbiare qualcuno a casa. Non è un paragone tecnico, però la domanda è se Bonucci per il Milan può essere quello che è stato Pirlo per la Juventus nel 2011, cioè quell'elemento che poi ti fa crescere d'un colpo, e sarebbe un paradosso, cioè sarebbe la storia che si ripete: Allegri che fa andare via un giocatore, rinforza una diretta concorrente, magari senza saperlo, perché forse oggi la Juve non considera il Milan una diretta concorrente per lo scudetto, e poi la storia racconta qualcosa di diverso. È un'ipotesi non da giornalista ma da scrittore, questo, guardando la giallo, il cerchio, è un giallo. Giallo. No, cioè Leo, devo dire che Leo è diventato un leader, un grande, arrivando in una squadra dove altri giocatori importanti c'erano già, no? E che quindi l'hanno fatto crescere ed è diventato uno dei leader. Oggi arriva al Milan da leader e quindi avrà una responsabilità diversa da quella che ha vissuto alla Juventus, perché è cresciuto insieme alla squadra. Lo dobbiamo vedere, Leo può essere sicuramente che la storia si ripeta, parte invertite con quello con Andrea Pirlo, lo dobbiamo aspettare, vediamo anche se ci sarà questo famoso acquisto finale del centravanti. Sì, che è quello di cui parlavamo. Allora, su Facebook scrive Sergio: spero arrivino Belotti e Sanchez dal Bayern. Io dico attenzione anche alla bulimia, perché poi sì, no, a prenderne troppi c'è il rischio di incasinarsi. Assolutamente, ci sbagliamo sempre, nel senso che il mercato è una delle componenti per poter vincere, non è l'unica componente, non è che stiamo giocando alle figurine panini. Bisogna metterle insieme, bisogna trovare i giusti equilibri, la voglia di mettersi in discussione, perché gente che è arrivata al Milan pagata anche tanto sicuramente pensa di essere così brava, ma adesso cambia l'ambiente, cambiano le aspettative, le difficoltà, perché è una squadra tutta da rifare, o almeno guardando gli elementi che sono tanti, è una nuova società, quindi con un DNA magari bisogna stare attenti a non esagerare, bisogna stare attenti a non esagerare. Fin qui si è intravisto chiaramente un progetto anche tattico, attenzione perché di bulimia si muore. Tutti parlano, scrive Andrea, di un grande Milan, quali sono i grandi giocatori tranne Bonucci? Secondo me Biglia è un grande giocatore, che sì, sì, potenzialmente è un grande giocatore, Conti lo volevano in tanti, poi ci sono anche quelli che vedremo che cosa sono, però allora, 4-5 ottimi giocatori sono stati presi. Secondo me sì, ci sono grandi potenzialità, le potenzialità, ho detto più volte che 2 più 2 nel calcio non fa mai 4, non c'è mai la certezza. Però c'è l'impronta di quello che vuole essere il progetto, c'è, quindi la responsabilità esiste da attribuire anche ai calciatori. Io credo una cosa, che la cosa fondamentale è che i giocatori che sono arrivati al Milan, il Milan per loro non debba essere un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Oggi possono scrivere la storia di un grande club, o almeno possono cominciare a riscrivere, certo. Grazie, sì. Demetrio. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Demetrio Albertini. Facciamo velocemente Diego da Verona. Dai, Diego. Sì, buongiorno. Vai. Niente, telefonavo in merito a Cassano. Sì. A me ha sorpreso veramente la maleducazione e la pochezza di questo individuo. Perché è un privilegiato e comportandosi così ha offeso gran parte dei tifosi che magari la domenica vanno allo stadio un po' per sognare, lui poverino si sente stanco e compreso e voleva smettere, poi ci ripensa, se io sul posto di lavoro faccio così mi lasciano a casa. No, ma questo l'abbiamo detto, Diego, però io non trovo l'elemento dell'insulto e della mancanza di rispetto verso una tifoseria. Ha avuto un momento di debolezza, tra l'altro in maniera molto sincera, avrebbe lasciato lì tutto, soldi e anche la possibilità, perché c'è un mese e mezzo di calciomercato per la società, di trovare un'alternativa, e quindi secondo me, fra tante cassanate che ha fatto Cassano, quella di ieri è stata la più innocua. Però capisco che ci sono pensieri diversi, ne stanno arrivando tanti anche via messaggio. Allora, 800 24 00 24, parleremo ovviamente anche del tour e di Fabio Aru. Oggi tappone, andremo sulle strade di Francia, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'alba dei morti viventi, il lungo addio, Ucronia, dopo un lungo silenzio e tanti altri episodi. Quest'estate Dylan Dog ritorna su Radio 24 e con lui Grucio, le sue donne e i suoi nemici. Ci ritroveremo, Dylan Dog. Ci ritroveremo. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni domenica alle 20:10 su Radio 24. Tutti convocati. Conto di allenare la squadra e di allenarla il prima possibile, ma soprattutto di allenare i giocatori che hanno voglia di ripartire con questo percorso, e se lui sarà di questo percorso, di questo gruppo, ne sarò contento, altrimenti ci saranno altre situazioni da sviluppare. Questo Stefano Pioli, che è lì come un baluardo a tenere sul progetto della Fiorentina. Saluto Carlo Pallavicino. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Procuratore nonché editore di calciomercato.com. Allora, facciamo il punto. Gonzalo Rodriguez è scaduto e è andato via. Ilicic all'Atalanta, Borca Valero all'Inter, Kalinic che vuole a tutti i costi andare al Milan, ma vedremo, perché sta per tornare in ritiro a Moena. Il Milan ha altre mire in questo momento. Bernardeschi che è sulla strada di Torino, Vesino che potrebbe finire nelle prossime ore all'Inter. Questa mattina c'è stato un incontro tra il suo agente e i dirigenti dell'Inter in sede a Milano, Chiesa che piace follemente al Napoli. Ora io capisco la necessità, e ieri insomma i dirigenti l'hanno detto, Firenze non è terra di conquista, però è difficile crederlo, Carlo. E aggiungiamoci anche che Badelli cambia procuratore, cosa che non è mai da sottovalutare. No, solitamente è l'antipasto di una partenza. Esatto. Quindi c'è evidentemente una situazione di totale fuggi dalla Fiorentina, e in questo mi dispiace estremamente per Pioli, che è un amico e che è una persona molto seria, ma è in questo istante il terrore, la percezione che lui stia allenando un gruppo di giocatori che probabilmente poi tra poco tempo non saranno più ai suoi ordini, e soprattutto nel caso di Vesino questo è un fatto piuttosto grave, perché Vesino è un giocatore fortemente voluto da Pioli, è un giocatore che cui Pioli fa riferimento negli allenamenti e che si diletta anche ai nuovi arrivati a spiegare tutte quelle che sono i dettami tecnico-tattici del nuovo gioco voluto da Pioli. Quindi sarebbe in questo senso una perdita, forse la prima vera perdita per Pioli, non auspicata o perlomeno non programmata. Sì, ma Vesino è un giocatore che può fare il titolare in una squadra che punta al terzo o quarto posto? Perché molti tifosi dell'Inter hanno più di una perplessità. Beh, direi che il terzo quarto posto l'ha già ottenuto quasi con la Fiorentina, quindi direi che tutto sommato non mi stai chiedendo la luna, cioè è un qualcosa che può ottenere facilmente. Io di Vesino ho un'impressione straordinaria quando giocò all'inizio, quando cominciò con Montella, ebbe una partenza estremamente, estremamente positiva, e ha continuato anche con Paolo Sosa ad avere un inizio di stagione, quella 2015-2016, estremamente positiva. Poi obiettivamente ha avuto un po' un calo, e nell'ultimo anno non è stato più all'altezza di quello che aveva saputo far vedere, però è un giocatore che fa reparto, è un giocatore che ha una capacità di poter rilanciare l'azione, ripartire e comunque anche arrivare al tiro, che secondo me, se sfruttata bene, può dare grossi grossi vantaggi alla squadra che lo ha con sé. Oggi Prandelli sul Corriere della Sera ha detto, a proposito di Bernardeschi: non capisco perché spinga per andare via da Firenze e andare alla Juventus a tutti i costi, va alla Juve e rischia di fare la panchina. Noi stiamo facendo il gioco della torre oggi, io mi tengo Bernardeschi, nel senso che secondo me è un grande colpo e non andrà necessariamente a fare la panchina alla Juventus, e butto giù tutti gli scettici, anche quelli che dicono che 40 milioni più bonus sono troppi. Sì, per me sono troppi, ma sono troppi tutti i soldi che sento in giro in questo momento. Ma questo è un discorso che si può fare in generale, poi se i valori di mercato sono questi. No, assolutamente no. Io penso che Bernardeschi debba completarla questa sua crescita, e obiettivamente gli si debba dare anche il tempo per farlo. È chiaro che sono quei giocatori che hanno un qualcosa in più che forse nelle grandi squadre hanno l'opportunità ancora di più di poterle mettere in evidenza, perché se hai la personalità, cosa che Bernardeschi comunque ha, e lo spirito di sacrificio, cosa che Bernardeschi ha, io penso che in certe platee possono rendere ancora meglio. Certo, è un grande dispiacere per Firenze, per un ragazzo che è arrivato dal settore giovanile giovanissimo e che obiettivamente aveva, la logica voleva che potesse continuare a giocare in maglia viola e potesse con quella magari diventare un titolare inamovibile. Però con un progetto vero, perdona. Però con un progetto. Il problema è sempre lì, capisci? Quando il progetto non c'è, i topi ballano, no? Ma io sono anche abbastanza convinto che tra qualche mese i Della Valle torneranno a rinnamorarsi della Fiorentina o quantomeno a tenersela per mancanza di alternative. E se li dovranno tenere anche i tifosi che li hanno criticati aspramente, io non giudico. Noi un mese fa abbiamo solo fatto due conti e abbiamo detto i Della Valle certamente avranno sbagliato tutto, ma in 13 anni nella Fiorentina hanno messo soldi veri, 220 milioni di euro. Ma attenzione, guarda, prima di buttare tutto a mare. Guarda che io non credo che i Della Valle abbiano fatto così tanti errori. Certo, ne hanno fatto uno molto grosso ed è stato quello di affidare la gestione della società a dei dirigenti non preparati. Questo è stato forse l'errore più grosso e oggi scontano questo fatto, perché alla fine di tutto io credo che i Della Valle abbiano poche responsabilità. Certo, quella di non saper delegare quello alle persone giuste, quella è una responsabilità dei capi e in questo loro ne sono responsabili, ed è un peccato perché io credo che oggi come oggi una proprietà italiana come Della Valle perderla per tutto il calcio italiano è un dispiacere, e purtroppo questo è lo stato dell'arte e devono fare solo mea culpa perché non hanno, ripeto, saputo dare in gestione alla società le persone giuste. Non è comunque facile venderla la Fiorentina. Assolutamente no. E quindi insomma non è del tutto escluso che tra qualche mese la Fiorentina torni saldamente nei progetti dei Della Valle, che nel frattempo avranno monetizzato tutto quello che si può monetizzare, aperto un nuovo ciclo, vedremo con che risultati. Grazie Carlo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie a Carlo Parlavicino, procuratore nonché editore di calciomercato.com. Agostino 800 24 00 24, state scrivendo in tantissimi dicendo che Cassano dovrebbe provare ad andare a fare dei lavori veri sotto il sole, usuranti, poi la sera andarsi ad allenare. Avete tutti ragione, ma Cassano fa il calciatore professionista e io credo che dopo un anno e passa di assenza dai campi la fatica che fa un allenatore, un giocatore professionista, possa anche portare l'idea di smettere. Agostino, dai. Eccomi, intanto grazie per la convocazione. Grazie a te. Giovanni, complimenti per la sua competenza. Grazie. E per la sua equidistanza. Dai, vai. Allora, io riallacciandomi al discorso Bernardeschi volevo aprire un po' il capitolo Juve. Non si è ancora parlato del clamoroso rifiuto Chic e del dolore di Bonucci, insomma ci lascia un po' orfani. Vorremmo capire se anche quanto dice il nostro capitano Del Piero effettivamente c'è al vaglio il grande colpo, il nome che ancora non si fa, oppure dobbiamo temere insomma chissà un disfacimento. Ma Agostino, un grande colpo la Juventus l'ha già fatto. Douglas Costa è un grande colpo, cioè Douglas Costa è uno dei migliori esterni d'Europa. Poi io sono d'accordo con te, se la Juve pensa di non sostituire Bonucci in mezzo fa un errore, si indebolisce. De Sciglio non è una certezza e quindi probabilmente anche lì la Juventus oggi sulla carta parte meno forte rispetto a quella dell'anno scorso. Leggo anche un messaggio, Ludovico da Taranto. La Juve ha speso un sacco di soldi per una riserva del Bayern, per Bernardeschi che è un futuro campione e per De Sciglio che è un'ex promessa mancata. Si può anche leggerla così, però ripeto, Douglas Costa è un grandissimo colpo e sono anche convinto che Bernardeschi lo sia e sia ben più di semplicemente una giovane promessa. Abbiamo però ancora tempo per parlarne, noi siamo qui fino alle 15:30, abbiamo una piccola pausa di traffico, poi c'è il Tour de France, dopo le 15 arriva Marco Belinazzo, quindi qualunque domanda voi scrivetela 349-238-6666. Parleremo anche di quello che si scrive e si dice in queste ore in Cina a proposito di Suning, perché la TV di Stato cinese si è chiesta se per caso dietro l'acquisto dell'Inter non ci sia una forma di riciclaggio di denaro sporco. C'è la risposta di Suning e proveremo ad approfondire insomma questa che è la notizia almeno per quanto riguarda l'Inter di queste ore. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Tutti convocati. Cristian da Torino, Cristian. Sì, buongiorno e grazie e complimenti d'obbligo, velocissimamente. Caso Cassano. Permetto che io sono dalla parte di Cassano perché forse in questo periodo in cui il lato umano dei calciatori è fagocitato da quello economico, no? Probabilmente ha mostrato una componente umana che forse riavvicina in qualche modo, almeno come a me è successo questo, il calciatore alla, no, alla plebe comune, no? Quindi tutta la vita Cassano. Ma la considerazione è, ma era necessario convocare una conferenza stampa per dichiarare il tutto, fermo restando io sono convinto che al momento della conferenza stampa il caso fosse già rientrato? Io credo di sì, Cristian, ma proprio sì, perché si tratta di Antonio Cassano, quindi credo che legittimamente, perché questo è successo, e il Verona gli abbia detto prendiamo atto delle tue volontà, però vai a spiegarlo così che non ci siano speculazioni, non si parli, perché in passato è successo, di liti, di rotture, di mancanza di integrazione all'interno di uno spogliatoio. E poi allo stesso modo, quando per due ore, tre ore si parla del ritiro di Antonio Cassano, è giusto che Cassano, se ci ha ripensato, come ha fatto, ci metta la faccia e spieghi perché le cose vanno diversamente. Quindi dal punto di vista della comunicazione io credo che tutta la questione sia stata gestita al meglio, e difatti oggi abbiamo tutte le idee chiare su che cosa è successo ieri in quelle tre ore. Vi faccio sentire qualche voce. Marotta ieri a Roma, sui campioni che partono e la società che resta, secondo me messaggio velato anche a Bonucci. Nonostante i campioni di anno in anno si avvicendano, poi abbiamo sempre la forza e la capacità di andare a recuperare degli altri campioni. Quindi i campioni passano, come diceva Francesco, la società rimane, la voglia di vincere è sempre intatta e ancora una volta noi partiamo in asse di partenza a pari degli altri. Poi vi faccio sentire Diawara. Ieri il Napoli ha vinto in amichevole 4-1 contro il Carpi, conta zero, a parte la conferma che il Napoli ha una capacità offensiva straordinaria e continua a segnare Milik, che può essere il vero nuovo acquisto del Napoli in questa stagione. Allora, Diawara, la Juve ci deve temere per lo scudetto? Per tutti il rispetto, in questo momento la Juve ci deve tenere perché abbiamo una squadra forte, io ci credo a questa squadra. Credi allo scudetto, quindi anche tu come tutti? Il scudetto è un sogno, ci credo, e lottiamo per quello quest'anno. Spero di arrivare ai sogni. E questa è la grande differenza rispetto all'anno scorso, quando la parola scudetto a Napoli era tabù. Oggi la pronunciano tutti, anche De Laurentiis, a suo modo sdoganata. Napoli che nelle prossime ore dovrebbe avere il rinnovo di Reina, così chiude ad ogni voce anche di trasferimento del portiere in Inghilterra. Da due giorni circola l'interesse del Manchester City. Poi Borriello, sui consigli al Milan per l'attaccante. Kalinic credo che abbia 29-30 anni, Aubameyang è giovanissimo. Io sono italiano, conosco il Gallo, è un giocatore che apprezzo moltissimo, ha una rabbia incredibile dentro, ha voglia di dimostrare. Quindi se io fossi un dirigente di una squadra e avessi le possibilità economiche, comprerei sicuramente Belotti, perché me lo ritrovo poi per 10 anni e sta facendo anche bene in campo internazionale con la nazionale. Quindi se fossi nei dirigenti del Milan io punterei sul Gallo. Questo Borriello. Su Belotti andiamo sulle strade del tour. Martin ha perso e domani si sale. Forse tu aggiungeresti finalmente si sale. Ci saranno due tappe spettacolari, quindi via, ci vediamo domani. Spettacolaro. Vedremo. Spettacolaro davvero, questa due giorni più la cronometro poi di Marsiglia in cui si decide tutto di questo Tour de France. Pier Augusto Staggi, ciao. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora dai, intanto raccontaci cosa sta succedendo. Ma sta succedendo che stanno andando forte, molto forte. Esteban Chaves è già in difficoltà, è stato grande protagonista del Giro d'Italia l'anno scorso, quest'anno al Tour in pratica non esiste. Contador sta cercando di dare un senso al suo Tour, sta guadagnando qualcosa sul gruppo Maglia Gialla, che è molto ben controllato dal Team Sky. Devo dire che Fabio Aru, il gambetta agile e sereno alle spalle della Maglia Gialla, quindi lì bello reattivo. Romain Bardet è dato attaccante come non mai, questa mattina ha assicurato: io farò già qualcosa in questa tappa, chi ha voglia di dare battaglia mi venga dietro. Staremo a vedere se è di parola. Fabio, ho l'impressione che in realtà starà a vedere quale sarà la reazione della Maglia Gialla per decidere se affondare anche nei colpi o giocarsi il tutto per tutto nel tappone di domani. Che è quello con l'arrivo all'Isoar, no? Che è la vera salita, la vera cima, la vera tappa. Però anche quella di oggi è una gran bella tappa. Oggi ha cominciato anche a piovere, quindi la discesa del Galibier sarà bagnata. E io, pensando a un Galibier bagnato e nuvoloso, ero presente e mi vengono ancora i brividi, perché ricordo benissimo, in maniera indelebile, il volo di Marco Pantani nel 1998. Le condizioni climatiche non erano per niente buone. Io spero che questo tempo variabile non vari nella sostanza e faccia volare il nostro Fabio in maglia tricolore verso la vetta del Tour de France. Sta facendo comunque in ogni caso un grandissimo tour. Sì, guarda, sto recuperando un messaggio che ha mandato un amico e aveva un tono abbastanza critico. Sta seguendo la tappa del Tour e dice: Fabio Aru attaccato alla ruota di Froome come una zecca. Ma io credo che se tu hai un problema di squadra, l'abbiamo detto in tutte le lingue, ecco, non possa fare diversamente. Non può fare diversamente, anche perché lui a questo punto è a 18 secondi, lui sa che c'è un uomo forte sorretto da una squadra fortissima. Lui deve, l'altro giorno purtroppo, ahimè, quella maglia era sulle sue spalle, probabilmente ce l'avrebbe ancora. Non cambierebbe tanto, anzi, nell'economia della corsa va bene anche così. Ma forse è anche un vantaggio, no? Forse è anche un vantaggio, perché ti togli dei grattacapi e a livello morale non fai la figura di avere la maglia gialla, che poi non può mettere a disposizione i propri compagni di squadra per contenere e guidare la corsa. Quindi è giusto che ce l'abbia fuori, però lui non ha altro da fare, deve stare lì attaccato, deve stare attento, non come due giorni fa, quando in realtà, ahimè, purtroppo ha dormito, ha commesso un grave errore di leggerezza. Probabilmente si sentiva da un lato bene, dall'altro pensava che non potesse accadere nulla, invece al tour, ma come in qualsiasi situazione, anche se guardiamo una partita di calcio, anche una situazione quando sembra tutto ormai scritto e definito, c'è il colpo di genio. Ecco, purtroppo anche nel ciclismo queste cose avvengono, ci sono i colpi di genio, ci sono i colpi di mano, e Fabio ha pagato profumatamente, perché ha dovuto cedere la maglia gialla. Adesso deve stare attentissimo e non perderlo di un secondo, cercare di leggere nei suoi occhi un momento di difficoltà per poter scattarli in faccia. Il momento in cui partire. Assolutamente, certo. siamo qui che seguiamo. Oggi il Galibier e non solo, domani l'Isoar e non solo, e noi ovviamente con il nostro Pier Augusto Stagi vi racconteremo tutto. Grazie Pier, ciao, a domani. Grazie a voi, buon pomeriggio. Umberto da Napoli, Umberto. Ciao, buongiorno a tutti quanti. E niente, volevo dire, a parte che io dico che oggi in Italia giocatori come Cassano non se ne vedono più, perciò dica che non deve lasciare. Però io volevo parlare del Milan, no? Volevo dire se Fassone, come si chiama? Fassone Mirabelli. Se sono all'altezza, io sono un grande tifoso del Milan, ho 69 anni, e se sono all'altezza di Braida e... Gagliani, e questo lo vediamo. Secondo me loro l'hanno presa bene quest'estate, hanno fatto quello che dovevano fare, attenzione al rischio di prendere troppo, ne abbiamo parlato prima con Demetrio Albertini, e poi ovviamente tocca a Montella in campo mettere insieme questo puzzle, però andiamo avanti a parlarne. Dopo il GR delle 15 arriva Marco Belinazzo, parliamo anche del caso Zaitsev, parliamo delle accuse a Suning, insomma abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Allora, rapidamente i contatti 800 24 0024 per intervenire in diretta col telefono, 349 238 6666, sms e whatsapp. Ci potete seguire anche video sulle nostre pagine Facebook, Radio 24 e tutti convocati trattino Radio 24. Se ci seguite video vi siete accorti che c'è Marco Belinazzo. Ciao. Eccoci, Marco. Eccoci, buon pomeriggio. Allora, abbiamo tante da smaltire prima di rifare ancora i conti in tasca a Inter e Milan sul calciomercato e non solo, perché torneremo anche su questa incredibile vicenda dei 222 milioni di euro che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a pagare per prendersi Neymar dal Barcellona. Allora, partiamo dalla strettissima attualità, perché sta girando in questo momento su tutti i siti, ovvero le domande poste martedì sera, ieri sera, dalla TV statale cinese in un programma a proposito dell'acquisto dell'Inter da parte di Suning. Sostanzialmente, la faccio in sintesi, non ha senso, è la domanda che si sono posti, aver acquisito un club che negli ultimi anni ha perso quasi 300 milioni di euro. Il sospetto è che possa esserci anche un'operazione di riciclaggio di fondi. Suning, che ha risposto attraverso un vicepresidente dicendo che la strategia si è sempre basata sullo sviluppo del mercato nazionale, che c'è l'appoggio dello Stato e che investendo sul club nerazzurro sarà più facile comprendere anche gli sviluppi nel mondo del calcio e dunque migliorare anche il livello di quello cinese. Marco? Beh, bisogna sempre leggere con attenzione le notizie che arrivano dalla Cina. La Cina è un paese complesso, legato al fatto che c'è un partito comunista al governo che ha sposato l'economia di mercato. Questa contraddizione poi si rivela in tanti piccoli aspetti. Ora, qui parliamo di una dichiarazione resa da un accademico, sia pure sì, da un ricercatore, una università statale sulla TV di Stato cinese, quindi non possiamo pensare che sia un folle, insomma, che ha detto semplicemente delle cose non corrette. E nemmeno che sia stato ospitato, perché non sapevano come riempire il palinsesto, perché altrimenti, insomma, perdiamo di vista il senso di però tutto. Però io escludo, insomma, che ci sia un collegamento diretto tra ipotesi di riciclaggio e l'acquisto di squadre italiane, nel caso specifico dell'Inter, da parte di Suning. Più in generale, diciamo che il governo cinese è impegnato in questi mesi, vi ricorderete tutti i discorsi sulla stretta monetaria che ha creato anche problemi al closing del Milan, è impegnato a dare un messaggio ai mercati finanziari legato al fatto che l'indebitamento complessivo della Cina è cresciuto, la moneta cinese si è indebolita e quindi il governo cinese deve dare un'idea di controllo dei mercati finanziari, da qui dei messaggi legati alla necessità di non incentivare le spese irrazionali, spese in particolare fatte quindi all'estero. E chiaramente il terreno del calcio è quello più come dire, fertile per dare certe comunicazioni al mercato e perché si faccia cassa di risonanza. Quindi questo tipo di messaggi vanno letti anche in una chiave, diciamo, globale e non specifica legata alla singola operazione. Al di là delle questioni tecniche del fair play finanziario, sul fatto che l'Inter sta facendo un mercato meno dispendioso di quello che si era immaginato, c'è anche come chiave di lettura una parte di ripensamento magari legato anche a tutte queste ragioni di contesto? No, io lo escluderei. Diciamo che molti sottovalutano il fatto che l'Inter ha avuto un problema, diciamo, di cassa, no? Oggettivo, nel senso che il progetto era di arrivare in Champions l'Inter non ci è arrivato, non è arrivato nemmeno in Europa League e quindi sono venute meno, diciamo, nell'ipotesi peggiore 20 milioni di incassi, nell'ipotesi della Champions addirittura 50, forse 60 milioni di introiti, ed è evidente che questi soldi deve come dire, farli sviluppare Suning nell'area commerciale, perché i diritti TV nazionali sono bloccati, lo stadio non può ancora rendere come lo stadio di una big europea, e di conseguenza come dire, o si fa crescere la parte commerciale, ma occorre del tempo, Suning già ha fatto molto in questa direzione, oppure si devono fare plusvalenze e poi fare operazioni oculate, perché l'Inter comunque l'anno prossimo deve chiudere il bilancio con un pareggio, considerando che nel triennio, quest'anno e gli ultimi due anni, deve fare in tutto meno 30 secondo le ordinarie regole finanziarie, e le ha già fatte, il bonus se l'è già giocato, e quindi questa è l'oculatezza. E anche il fatto, Giovanni, che si è scelto come obiettivo prioritario, perché non voleva Spalletti, diciamo, insomma, un obiettivo che era Nainggolan, e la Roma a sua volta lo ha blindato, perché non può fare a meno del ninja in questa sessione di mercato. Diventa tutto molto complicato. Allora, scrive un amico: può spiegarmi dove finiscono le plusvalenze annuali di Lotito? Vedi Candreva, Biglia, visto che non le reinveste per intero. Beh, c'è traccia, insomma, nei bilanci della Lazio, sì, che li porta che via. È quotata. No, di solito poi i bilanci sono della Lazio, sono chiusi in pareggio con qualche utile, qualche perdita, ma negli ultimi anni, insomma, da questo punto di vista c'è poco da criticare la gestione Lotito dal punto di vista, appunto, semplicemente dell'equilibrio dei conti. Poi è evidente che magari i tifosi vorrebbero qualche acquisto più, qualche cessione in meno. Enzo da Roma, Enzo. Sì, buongiorno. Vai. Volevo intervenire su Cassano. Vai. Ricordandomi alcuni episodi calcistici. Come tifoso della Roma, il 4-0 alla Juventus, con un Cassano strepitoso, sia con i gol che fece che con gli assi. Come tifoso della nazionale, la vittoria sulla Germania alle semifinali degli europei del 2010, con una magia di Cassano che si liberò tra tre uomini, sì, e un cross 2012, sì, 2012. Che è stato 2012. Il punto più alto in nazionale, dai Enzo, vai. Su Balotelli, sì. E quindi Cassano ha dato veramente molto al calcio. Devi riflettere anche su questo, su quello che ha dato, non solo su quello che avrebbe potuto dare e non ha dato. Sì, ma lui, insomma, ha fatto la sua carriera. Secondo me ha ragione oggi, riguardando indietro, dicendo, rendendosi conto di aver buttato via gran parte del suo talento. Però Cassano è stato comunque un giocatore importante degli ultimi 15 anni di calcio italiano. Leo da Taranto, Leo. Sì, grazie della convocazione. Dai. Due considerazioni velocissime sul tormentone Bonucci. Lei prima ha detto se tecnicamente vale il passaggio di Pirlo dal Milan alla Juventus. Come impatto, cioè l'idea di aver dato a una diretta concorrente un giocatore che fa crescere tutto il progetto. Prego Leo. Sì, con una differenza, 40 milioni in più nelle tasche della Juventus. Sì. Sbaglio, Pirlo arrivò a parametro zero. Pirlo arrivò a zero, però secondo me 40 milioni non sono tantissimi, non so cosa la pensa Marco. Insomma, Bonucci è un giocatore che è vero che poi il prezzo lo fa il mercato, e se va a 40 vuol dire che quello era il prezzo giusto in questo momento. Un anno fa non possiamo dimenticarci che c'era chi ne offriva più di 60. Sì, magari qualcosina in più l'avrebbe offerto volentieri anche in questa sessione se Bonucci avesse accettato poi di andare all'estero. Ma in ogni caso, poi ricordiamoci una differenza fondamentale, che in quel momento, cioè quando Pirlo passa dal Milan alla Juventus, veniva dato quasi come un giocatore finito, almeno questa è la memoria che io, forse puoi, no? Sì, era un giocatore che era considerato non più integro fisicamente. Alla fine Bonucci, insomma, credo che sia in un momento top per un difensore, insomma, tra i 28 e i 30 anni, insomma, un momento di grande maturazione, e sì, diciamo che il prezzo può corrispondere al valore di mercato un giocatore come Bonucci in questo momento. Allora, saluto Max Sardella. Ciao Max. Ciao, come va? Bene, social media manager di Calciatori, e l'abbiamo chiamato perché torniamo a parlare della vicenda di Zaccardo, che ieri abbiamo sentito. Aspettate lì. Buonasera ragazzi, in attesa di farmi il massaggio c'è il mio leone Spalletti che esce fuori dal lettino, come vedete. Vedete, 2,10 metri. È una giraffa. If you are grumpy, you have nothing to do on this planet. Nothing to do on my Instagram. I'm sorry. Don't be jealous. All the sad people, but after this video, they're going to be happy. Primo giorno a Boston. Una vergüenza. Siamo evacuati. Nos sacaron del hotel, pipa. Una vergüenza. Afuera. Una vergüenza, André. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. É mais uma do Kevinho, negão. Acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Quando ela faz um baile funk das amigas, cara. Buongiorno, ragazzi. Mi passo una persona. Gioi. Positività, zio Cacio, li mangiamo. Porco diavolo, porco. Andiamo a prendere gli altri lì. Alti li voglio. Esta festa non tiene fin, botellas para arriba, si los tengo bailando, rompendo, y yo sigo aquí, sigo rompendo aquí, Insomma, questi si sono divertiti a fare un blog di tutto quello che hanno postato in questi mesi, tutto, a parte di quello che hanno postato sui social in questi mesi i calciatori. Max Sardella, che è social media manager di tanti calciatori, quindi è quello che li aiuta nelle gestioni di queste strategie comunicative che sono sempre più parte integrante anche del calciomercato, oltre che del calcio di oggi. No, Max, ieri abbiamo raccontato questa storia di Zaccardo che sta usando LinkedIn per trovarsi una squadra. Ma Zaccardo gli do un voto 10 come social media manager di se stesso, perché ha utilizzato uno strumento che è LinkedIn, che connette tutte le persone che cercano lavoro, no? Quindi da quel punto di vista voto 10. E poi credo che Christian abbia come calciatore rotto un paradigma. Se prima i calciatori si rivolgevano agli agenti per cercare squadra, lui si è rivolto a LinkedIn, quindi LinkedIn è diventato il suo procuratore digitale. Si è trattato come un lavoratore qualsiasi. Ma perché poi lo scopo dei social è umanizzare anche gli atleti, no? E quindi sono persone come noi, la vera magia è quella di aver umanizzato i calciatori. Cioè, quando io vedo Evra, che prima della finale di Champions fa quel video, ci porta dietro le quinte di persone, non di atleti, ecco, è la vera magia quella lì. Anche se poi Marco Bellinazzo, la verità è che dietro ogni singolo post, ogni singolo tweet, ogni singola foto, video, in realtà c'è uno studio, spesso ci sono dei guadagni. Sì, dovrebbe esserci tutto questo ormai, talvolta non c'è chi come Ronaldo Cristiano fa centinaia di migliaia di euro per ogni tweet. Assolutamente, abbiamo raccontato sulle pagine di Sport e Business proprio lo scorso weekend, no? Quello che vuol dire ormai il calcio social. Le squadre vendono il proprio brand agli sponsor anche in base a quelli che sono tutti i loro follower in senso ampio, e ora anche i calciatori hanno un peso specifico contrattuale, lo potranno avere sempre di più in base al seguito che suscitano sui social. Quindi è evidente che è un mondo in cui serve professionalità, e devo dire che Max, insomma, è uno di quelli che ha iniziato per primo, insomma, a cercare di dare professionalità a questo aspetto che veniva spesso trascurato. Ti ringrazio, tu sai che sono tanti anni che cerco di condividere il potere dei social media. Io allacciandomi su quello che hai detto, Marco, io credo che siano i tifosi ad aver creato un nuovo mercato online, ed è compito degli atleti entrare sia come imprenditore sia come ambassador. E quindi se creano delle relazioni importanti con i propri fan, possono diventare anche degli imprenditori che possono fatturare anche dei guadagni. Se noi seguiamo Cristiano Ronaldo, che ha quasi superato i 120.000 follower su Instagram, cioè 120 milioni. 120 milioni, scusate, su Instagram, ci fa capire che ci sono 120 milioni potenziali di clienti. Sì, è una nazione praticamente. Io la butto lì. Poi ti chiedo, Max, chi è il calciatore attualmente in Serie A che vale di più da questo punto di vista e con questo parametro, che non è solo quello numerico, ma è anche la capacità di usarlo. Mi viene in mente che nel Milan è aperta la discussione su chi debba prendersi la maglia 19 tra Bonucci e Kessié, che è arrivato qualche settimana prima. Io l'ho detto ieri sera in una trasmissione, non c'è partita. LB19 oramai è un brand. Nemmeno sui social. Nel calcio di oggi non si discute. Mi spiace perché sì, ma la 19 se la piglia Bonucci. Ma il Milan sta facendo anche una comunicazione digitale pazzesca. Fanno un acquisto, fanno una diretta, e qualcosa di straordinario. Ma io non mi piace parlare della parte tecnica, quelle sono cose che spettano a chi ha delle competenze. Ad oggi nessuno può negare il profilo importante che ha Leonardo Bonucci online, quindi da quel punto di vista, per quello che può valere il mio parere, Leonardo Bonucci ha un'immagine veramente devastante sui social media. Quindi assolutamente sì. Chi è quello che pesa di più in Italia? Ma in Italia io credo che anche il video che ha messo oggi Dybala, no, e ci porta dietro le quinte di quello che gli succede durante la sua giornata. Ma a me piacciono molto quello che stanno facendo tutti i ragazzi dell'Atalanta, no? Hanno un po' sfruttato anche l'onda di risultati importanti, quindi penso a Petagna, penso a Papu Gomez, che hanno creato un intrattenimento interessante. Ma in generale non mi piace fare le classifiche, in generale mi piace commentare il valore che possono portare i ragazzi, no? Quindi di sicuro Io darei lo scudetto social l'anno scorso all'Atalanta, quindi vediamo quest'anno chi può battere la coppia Petagna e Papu Gomez. E anche altre copie, perché poi attenzione anche le mogli e le compagne, ormai, che non tutto viene fatto per caso. Penso ai Carli, viene, Vandanara, certo, Bonucci e certo, sua moglie. Certo, beh, voglio dire, il classico, diciamo, modello comunicativo è sfidare un messaggio a qualche familiare. Penso anche a tutti i messaggi, per esempio, del fratello di Higuain, no? in tante circostanze, e sì, c'è anche questo aspetto ormai da considerare. Quindi quando le società ormai dovranno firmare delle clausole specifiche sull'utilizzo dei social ai calciatori, dovranno anche pensare agli amici e parenti, insomma, perché anche quello può essere dirompente. È tutto un mercato indotto. Grazie Max. Grazie a voi, grazie Marco, ciao Giovanni. Ciao, grazie a te, mille. Grazie a Max Arsella, social media manager di tanti calciatori. Lasciamo il campo del calcio e parliamo di pallavolo. Vi faccio sentire la voce di Cattaneo, presidente della Feder Pallavolo. La vicenda è quella incredibile di Zaitsev, la riassumo in 30 secondi per chi non l'ha seguita. Zaitsev, che è sicuramente il giocatore più forte oggi della nazionale, tra un mese ci sono gli europei. Ieri è stata cancellata la sua convocazione perché non è riuscito a trovare un accordo su con quale scarpe giocare. Lui ha un suo sponsor personale, diverso da quello della federazione e di tutte le nazionali. Le regole dicono che deve giocare in nazionale con le scarpe dello sponsor della nazionale. Insomma, è venuto fuori un casino e Zaitsev è stato mandato a casa. C'è Andrea Lucchetta che ci dirà cosa ne pensa. Sentiamo Cattaneo. Bisognerebbe avere un po' più di, diciamo, realtà e di onestà. La federazione è a disposizione in qualsiasi momento, però chi ha creato il problema lo deve risolvere, non l'abbiamo creato noi. La mia sensazione è una sensazione di profondo dispiacere e di grande amarezza. La federazione ha fatto tutto il possibile per risolvere un problema evidentemente relativo all'utilizzo delle calzature della nazionale. Le ragioni sono altre. Non sono ragioni di natura evidentemente ortopedica a qualsiasi livello, perché alcune scarpe non sono state neanche provate, le ragioni sono altre. E insomma, questa è la parola della federazione. Andrea Lucchetta, ciao. Buongiorno a tutti, io vi dico, ho le scarpe fila e per cui revoco la mia convocazione, per cui rimandatemi assolutamente a casa o in spiaggia dove volete voi. Ti richiamiamo domani, no? Allora, il tema è questo, io ti ho seguito, sì, su Facebook questa mattina, tu hai un'idea. Brutto bastardo, quindi mi hai spiato. Ti ho spiato. La mia pagina è aperta, non è un problema. Assolutamente, ti ho spiato, so che hai un'idea abbastanza chiara che adesso ci spieghi. Io non la penso come te. Io credo che un atleta, che è un professionista, debba essere libero di monetizzare se stesso, la propria immagine, anche attraverso lo sponsor e le federazioni. So che ci sono i regolamenti, quindi evidentemente ci sono le regole, ma insomma, come discorso filosofico dovrebbero in un certo senso farsi da parte. Però ti lascio il microfono. Ma fondamentalmente tu sei un filo calciofilo, per cui ti posso concedere questo tipo ovviamente di pecca e di macchia nella coscienza. La coscienza popolare impone poi a perché devo andare a infrangere quello che è un sogno di squadre nazionali che partono dal Club Italia maschile e femminile, juniores e pre juniores, che possono vestire un unico brand, un unico marchio. Le regolamentazioni, il regolamento federale parla chiaro, perché hanno messo 25 giorni per cercare di trovare un accordo, come mai e perché è partito per il collegiale invece di essere in grado di poter scegliere qualsiasi tipo di scarpa su cui poter eventualmente utilizzarla per quanti erano i loro allenamenti. Perché per Ivan Zaitsev bisogna cambiare i regolamenti? Perché non si rispettano gli altri 14 ragazzi che stanno allenando e stanno giocando con le Mizuno? Perché Paolo Egonu e Valentina Diouf hanno cambiato scarpe e cambiato i plantari? Perché questa evidentemente perché? È stata gestita malissimo. Io su questo non ho assolutamente dubbi. Ma sono pienamente d'accordo con te. Il problema è un altro. Da questo punto di vista deve fondamentalmente risolvere il problema chi l'ha creato. Sono d'accordo con Cattaneo, non perché sia un filo federale, perché è un problema che è stato gestito sicuramente male. Dal mio punto di vista Zaitsev non doveva neanche partire per il collegiale, fin tanto che non aveva bene il numero di paio di scarpe, le quattro paio di scarpe da poter provare. Aver scelto la scarpa giusta, provata e testata, ha avuto più di 25 giorni di tempo in cui era libero, poteva tranquillamente nei divani di casa provare le sue scarpe, no? Andare a testare in palestra, essere convocato con la pre-unione, sull'unione, su prima della partenza della vittoria dei campionati europei. Ma aveva tutto il tempo per trovare un'alternativa. Beh, io... secondo me sì. E poi ovviamente la situazione viene ad essere sfuggita di mano, perché se ti metti contro a muso duro ovviamente una casa internazionale dove ti fanno arrivare dal Giappone pure delle scarpe che hai scelto tu, le tre scarpe che gli altri tuoi compagni di squadra usano e utilizzano, manco da quello che c'è scritto nel comunicato federale, non le hai manco provate, non provi pure ad avere eventualmente quel problema di una soletta fatta apposta da poter risolvere, allora c'è realmente dietro qualcosa che sì, noi beh, non conosciamo. Il presidente Marco Cattaneo le ha evocate queste altre ragioni. Io credo che appunto linea di massima sono d'accordo con te Giovanni, che insomma ci sia necessità di essere più professionali e di sfruttare commercialmente la propria immagine, però nel momento in cui ci sono dei regolamenti che preventivamente ti obbligano a indossare una certa marca che di scarpe conosceva anche l'altra, quindi l'altra non capisco azienda. Dove sia nato il problema, e se non vuole accettare questo non gioca. La soluzione potrebbe essere convocare Zaitsev per la nazionale di beach volley, che c'ha anche se gioca in piedi nudi. Questa è molto carina, ti do 10 con lode, questa qui me la vado a giocare sui miei social, sei il numero uno. Però lì si incazzerebbero Lupo e Nicolai, perché avendo lo sport, fammi capire, ma perché questa contaminazione con il pallavolaro? No, noi siamo dei sabbearoli, per cui il nostro sposo ce lo teniamo per noi. Beh, è bella sta cosa, è venuta veramente bene. Io ho ancora un minuto, no, me lo prendo con Lucky Lucchetta, magari sforiamo di qualche secondo, non ci ammazzeranno. Ma a te è mai capitato, tu sei anche stato un grande personaggio d'immagine oltre che un grandissimo giocatore, è mai capitato di dover rinunciare a monetizzare una parte di quello che sei stato per star dietro dei regolamenti, e magari che cosa hai pensato? Assolutamente sì, anche perché purtroppo nella mia etica professionale rispetto le regole, i regolamenti, e ti dico anche che mi sono giocato un tendine di Achille con la borsite bilaterale che mi viene ancora oggi quando inizio a correre. Ho giocato una partita con due unghie incarnite, con l'ago e filo, con l'ago incandescente, con il filo lasciato dentro, con i due alluci praticamente fasciati per giocare una partita, e ho onorato quelli che sono stati gli accordi che ovviamente uno sponsor di una mia società aveva preso. Quindi bisogna trovare anche il modo ovviamente di fare un piccolo passo indietro. Ti dico anche che ai tempi, quando c'era Publitalia, ho rifiutato una sponsorizzazione personale indotta, perché non andava assolutamente in linea con la mia etica, perché non potevo assolutamente fare quel tipo di pubblicità. Bisogna fermarsi un attimo a gestire meglio queste situazioni e cercare di preservare, perché come ti ripeto non vinci da solo una partita, c'è una squadra, c'è tutto un movimento intorno. Esattamente. Speriamo che rientri questa cosa. Grazie, sì, Andrea. Speriamo bene. Grazie ragazzi. Grazie Andrea Lucchetta. Io ringrazio anche Marco Belinazzo, ringrazio Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, Andrea Roccabella. Domani torniamo dopo il GR delle 14. Abbiamo altre mille cose da raccontarvi. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.